Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati ad una nuova puntata di Salva Danaio. Ci stiamo avviando verso la fine dell'anno e naturalmente dedicheremo gran parte delle nostre ultime puntate proprio alle tematiche finanziarie, alle tematiche dell'investimento. Come sempre ogni anno di questi tempi si tracciano bilanci e quello di questo 2009 che stiamo andando ad archiviare è un bilancio complicato perché è stato un anno forse di poca serenità economica per molte aziende, per molte famiglie, l'anno che ha rappresentato forse, quantomeno lo speriamo, il punto più basso della crisi nata nel 2007 a causa dello scoppio della bolla immobiliare americana. E i fatti che ci hanno colpito tutti, come giornalisti, ma anche come consumatori, investitori, sono stati tanti. Le borse, dopo una discesa dirompente durata un anno e mezzo, da marzo hanno ripreso a correre. Questa corsa non si ferma. C'è stata la crisi di Dubai, c'è stata la crisi greca, c'è stato il crollo dell'inflazione, i tassi di interesse che si sono ridotti a zero per permettere all'economia di ripartire, ma chissà se questa è una buona ricetta per tutto. C'è la riduzione dei redditi per la perdita del posto di lavoro all'interno di molte famiglie, con le conseguenze che si possono immaginare anche nelle scelte di investimento per chi riesce ancora a risparmiare. Allora noi oggi vogliamo sentire anche la vostra in questo piccolo salottino finanziario che abbiamo creato per voi. E vi vogliamo interpellare su quelli che sono stati i temi, i fatti che vi hanno colpito di più quest'anno. Abbiamo avuto anche il terremoto in Abruzzo, c'è poco da ridere su questo argomento e questa tragedia rimarrà scolpita nel cuore e nella mente di ognuno di noi a lungo, ma come sapete qui a Salva Danaio si parla di denaro. Noi oggi vorremmo commentare insieme a voi i principali fatti economici dell'anno, quelli che vi hanno più turbato, sorpreso, infastidito, raccontateceli, li commenteremo appunto con due colleghi che sono molto contenta di avere qua con noi. Allora intanto Lionello Cadorin, direttore di Investire, poi vi racconto che cosa fa, non lo abbiamo mai avuto, quindi Lionello sono particolarmente contenta di averti con noi oggi a Salva Danaio, benvenuto. Buongiorno a te, Deborah. Buongiorno, eccoci qua. Allora, Investire è un periodico che analizza proprio a 360 gradi il panorama degli investimenti, un mensile di finanza e di risparmio storico a 27 anni di vita. Non sei sempre stato in sella, ovviamente, no. In tutto questo tempo alla guida del giornale, però mai come quest'anno immagino sarà stato interessante analizzare il panorama degli investimenti, delle proposte dell'industria del risparmio e anche delle scelte dei risparmiatori. È più difficile dare dei consigli. Molto più difficile, e credo che il 2010 non sarà migliore, anzi forse sarà ancora più complicato. Saluto poi Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Lo abbiamo interpellato perché fino a qualche mese fa è stato condirettore di Panorama Economy, il supplemento settimanale di l'economia appunto di Panorama. Maurizio, buongiorno, lo abbiamo rapito stamattina in una località un po' distante da Milano, ma siamo ben contenti di avere anche lui con noi quest'oggi. Contento io di essere con voi. Grazie. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande, per le vostre riflessioni su quest'anno che stiamo andando ad archiviare. 349-238-6666 è invece il numero per i vostri sms. Se siete dei timidi, come sempre non vi piace intervenire ma volete comunque dire la vostra sul tema di oggi. La borsa, come dire, tracceremo anche il bilancio di quest'anno che andiamo a chiudere, anche se ovviamente lo faremo un po' dal punto di vista giornalistico, poi per quello che riguarda proprio, come dire, come sono andate le borse, i titoli del settore obbligazionario, ci occuperemo di questo prevalentemente domani e al ritorno di Salva Danaio il 4 gennaio. Oggi però andiamo a vedere quello che sta accadendo questa mattina, come facciamo sempre sui mercati. C'è una giornata ancora positiva in Europa, dopo già quello che è successo ieri. Questo rally di Natale ormai si conferma, la borsa internazionale vuole chiudere l'anno in bellezza e anche oggi consolida l'Europa i rialzi di ieri. Abbiamo un più 0,31% a Parigi, Francoforte più 0,12%, Londra più 0,52% e Milano più 0,33%, Londra guadagna un po' di più perché deve recuperare la seduta di ieri. Ieri la City era chiusa per il Bank Holiday e quindi insomma quadro ancora positivo. Sta andando piuttosto bene stamattina il settore assicurativo e anche a Milano infatti sono Unipol e Fondiari a guadagnare di più, più 1,65% rispettivamente, più 1,26%, bene l'Ottomatica più 1,24%, Prismian e Generali in rialzo di un punto, più 0,8% per Autogrill, più 0,7% per Unicredit. Il segno meno invece su Geox che ha corso molto ieri e quindi oggi si ferma, meno 0,7%, scende di mezzo punto la Popolare di Milano, Mondadori meno 0,4%, Fiat meno 0,39%, rapporto euro-dollaro a 1,44,13, il petrolio è sui $78,5, come già commentavo ieri. ce ne siamo accorti immediatamente sui prezzi della benzina, appunto, dai distributori. Abbiamo oggi a Piazza Affari un debutto, peraltro anche questo potrebbe essere un tema di discussione questa mattina, il ritorno della fiducia in borsa da parte delle società. Chissà se quest'anno, su questo 2010 che apriremo tra poco, sarà migliore per quello che riguarda le società che decideranno appunto di fare ricorso alla borsa per migliorare la propria politica degli investimenti e per raccogliere risorse dal mercato. C'è questa società che si chiama House Building, che oggi ha debuttato sul segmento AIM in borsa e il titolo sta guadagnando adesso, scusate, non so cosa sia successo, faceva più 8% fino a qualche minuto fa, adesso ha più 50%, per cui evidentemente qualcuno sta facendo incetta di questi titoli. Sono anche titoli sottili, quindi bastano magari pochi investitori per provocare questi movimenti così vistosi, ma in ogni caso ci sembra un debutto assolutamente positivo. Allora lasciamo la borsa di questa giornata, ma andiamo a parlare un po' di borsa in termini generali, un po' di investimenti in termini generali, di quello che è successo in questo 2009. Questa mattina due direttori, due colleghi giornalisti, Lionello Cadorin, ovviamente non avendoti mai avuto salvadanaio voglio approfittare subito della tua presenza per chiederti se così proprio dal punto di vista giornalistico c'è stato un fatto che ti ha particolarmente colpito quest'anno, se comunque è stato un anno indimenticabile per tanti motivi, insomma in termini complessivi generali. Fatti tanti, penso a un fatto di cronaca che ha colpito molto l'immaginario collettivo, anche se poi in realtà i coinvolti in Italia erano soltanto pochi, ricchi o straricchi, cioè il famoso caso Madoff, questo signore che è riuscito a truffare così tanta gente e poi è stato condannato, perché in America non guardano in faccia nessuno, a 150 anni di carcere. Ma tu hai citato prima la borsa, io direi che un fatto di quelli che poi accadono, e purtroppo la maggior parte della gente, in questo caso la maggior parte degli investitori e risparmiatori non se ne accorge, secondo me è stata questa ripresa così violenta, così forte, così lunga della borsa. Perché adesso è facile dirlo, ma se ritorniamo a un po' di mesi fa, a quello che si diceva, a quello che si sentiva dire da grandi esperti, guru e economisti, sembrava che insomma il mercato, una volta caduto giù, non si sarebbe più ripreso per chissà quanto. Nel settembre di un anno fa sembrava che addirittura non dovessero più riaprire le borse per qualche giorno di tutto il mondo, invece nel giro di qualche mese. Ma in ogni caso si pensava a un periodo molto difficile, che di lì a un anno, invece di lì a un anno, al momento più brutto della crisi, ci si è ritrovati in questa borsa, questa esplosione violenta e di quotazioni che purtroppo fanno pensare adesso a molta gente che potrebbe, se se ne fosse accorta un pochino prima, che la borsa, infatti, evidentemente molti questo cavallo non lo hanno cavalcato. La grande maggioranza degli investitori normali, prudenti, italiani soprattutto, che sono così affezionati alle obbligazioni. Ma forse proprio per questo motivo in questo momento è bene continuare ad incoraggiare questa prudenza, perché chissà cosa potrebbe accadere. Questo lo dicevamo in verità anche ad agosto, nel trimestre autunnale non è successo un bel niente, quindi insomma vedremo un po' cosa ci aspetta. Peraltro in molti sostengono, sentivo qualche gestore, qualche analista qualche giorno fa, in molti si chiedono cosa potrà succedere nel 2010, sempre per la borsa, continuerà a correre, si fermerà, e tutti puntano l'attenzione sulla disoccupazione americana. Il mercato americano del lavoro è estremamente flessibile e questo incoraggia le previsioni di chi crede che comunque il tasso di disoccupazione, pur essendo alle stelle in questo momento, potrà recuperare pian piano, e quindi se recupera il mercato del lavoro americano tutti gli andremo dietro, e quindi ma potrà essere solo quello il nostro faro, Lionel? Cosa ne pensi? No, io credo che per investire in borsa è un discorso che vale sempre, ma a maggior ragione l'anno prossimo, non sia da guardare tanto le economie, i mercati e forse nemmeno anche i singoli settori di borsa, finanziario, industriale, farmaceutico, ma andare a guardare o da soli o con l'aiuto di qualcuno che è in grado di aiutarci a vedere le società buone, ben gestite, con pochi debiti, che producono tanta cassa, che hanno prospettive di mercato, le società di valore che in un anno come il prossimo potrebbero, secondo me, dare grandissime soddisfazioni. Quindi sì, magari continuare sicuramente, forse con un po' meno entusiasmo, a guardare la borsa, selezionando molto rigorosamente. Esatto, questo sarà, insomma, un anno in cui anche la se parola, non siamo dei gestori, quelle parole un po' tecniche, selezione e selettività saranno assolutamente la chiave per guadagnare in borsa. Maurizio Tortorella, allora posso chiedere anche a te cosa ci lascia, cosa ti lascia quest'anno che si sta chiudendo, proprio dal punto di vista, come dire, professionale, nel senso dei fatti che hai osservato, raccontato e commentato anche con il tuo giornale. Il 2009, non ce lo dimentichiamo, ha portato anche un senso di impoverimento generale, perché è diminuita complessivamente anche la ricchezza delle famiglie, lo attestava Banca d'Italia qualche giorno fa, lo diceva anche il rapporto BNL Einaudi sulla propensione al risparmio degli italiani che sono un po' frustrati frustrati da questo fatto che non riescono ad accantonare risorse per il futuro come vorrebbero, ma insomma anche qua i problemi però, occupazionali. Però un aumento, leggevo proprio nel rapporto Einaudi, del centro Einaudi, che dal 2008 al 2009 le famiglie che sono riuscite a mettere da parte qualche cosa sono aumentate dal 31 al 47%, ed è un buon segnale, sì. Da un terzo a quasi metà degli italiani. Ecco, io sono caratterialmente un ottimista e non sono purtroppo un esperto come Lionello Cadorin, che conosco da tanto tempo e che stimo moltissimo, esperto in materia di risparmio. Quello che a me ha tanto stupito dell'anno che sta finendo è stato la massa impressionante di investimenti pubblici e di spesa pubblica che si è riversata a compensazione della crisi. Questo è sicuramente stata una cosa positiva sotto molti aspetti, perché ha impedito che si verificassero crisi drammatiche come quelle del 29, per intenderci, una crisi che per tante volte è stata paragonata alla crisi che abbiamo vissuto dall'agosto del 2007. Però indubbiamente questo crea pressioni e problemi per i mesi a venire. Penso per esempio al debito pubblico americano, che leggevo oggi è arrivato a 12 mila miliardi di dollari e copre l'86% del prodotto interno lordo del paese, e che corre verso il 100% del prodotto interno lordo. Ecco, questo tipo di misure, questo tipo di manovre, questo tipo di iniezioni di denaro pubblico indubbiamente crea una qualche apprensione per il futuro per quel che riguarda l'inflazione. No, tra l'altro hai utilizzato, Maurizio, scusami se ti interrompo, il termine giusto, apprensione, perché si fa molta fatica ad affrontare apertamente il tema della cosiddetta exit strategy. In qualche maniera i governi dovranno rientrare da questi enormi deficit, ma ancora nessuno ha il coraggio di cominciare a fare queste politiche di rientro. Perché? Perché forse troppo presto? Perché cosa ne pensi? Indubbiamente, però anche questo scollamento tra l'economia reale e la finanza, queste le borse che mediamente hanno nel corso dell'anno incassato incrementi in Italia dal 32% fino al 50% delle borse americane, vuol dire è curiosa, no? questa discrasia comportamentale. Da una parte l'economia reale che non riesce ancora a recuperare, o lo fa flebilmente qua e là, e lasciamo perdere i paesi cosiddetti emergenti, che in realtà sono emersissimi, tipo, esatto, super emersi, appunto, ormai vanno ancora al 9-10% di incremento del prodotto interno lordo, però invece la finanza, le borse vanno così bene. Sono tutti segnali che anche a un ottimista come me in qualche maniera fanno inclinare verso la prudenza. Certo, la prudenza. Allora, tra l'altro, il tema delle politiche governative a sostegno dell'economia, quindi tutti i soldi che i governi hanno dovuto mettere sulla bilancia per poter fare in modo che non si andasse al tracollo totale, è il tema che in qualche maniera si riconducibile anche in qualche modo alle domande che vogliono farci due ascoltatori. Io li metto già subito in pista perché sono contenti appunto di dialogare con due miei colleghi, e quindi io sento Stefano da Udine, Domenico, poi ovviamente Leonardo ti faccio intervenire sul tema dei mercati emergenti, a cui è stata dedicata la copertina di Investire dello scorso mese di novembre, perché invece l'ultimo numero dell'anno, quello di dicembre, ha come titolo 2010 più potere al cliente. Anche questo è un altro bel tema, il tema della scelta dell'intermediario, della persona a cui affidare i nostri risparmi. Tornando però invece ai governi, ai soldi messi in campo per il sostegno economico e a tutta l'inflazione che questo genererà nei prossimi anni, sentiamo un paio di ascoltatori. Stefano da Udine, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Senta, io volevo fare questa considerazione. Io ieri ho sentito Focus Economia, sì. No? E quindi insomma mi sembra che sia una trasmissione abbastanza credibile, no? E ha dato un dato che mi ha lasciato veramente senza parole. Sapevo un po', ma non immaginavo questo. Allora, volevo fare una piccola premessa, no? Si parla tanto dal minimo che la borsa è cresciuta tantissimo, no? Senza tener conto che il minimo della borsa era veramente in una situazione in cui si credeva che tutto fallisse, no? Eh sì, insomma è tornata indietro al 1997 il livello del mercato. Non ha senso dire salita del 50, 70, 80 rispetto a quel minimo lì. Secondo me il dato importante è questo, quello che ha dato ieri proprio Sebastiano Barzoni, questo. Negli ultimi 10 anni le 50 società europee più grandi, cioè l'Eurostoxx 50, è sotto del 38%. Sì, sì, perché ieri ha fatto Sebastiano Barisoni, lo ricordo, un punto con Mario De Aglio rispetto a quello che è accaduto in borsa nel decennio, quindi sì, un punto molto molto ampio, un raggio d'azione molto ampio è stato toccato. Quindi? Allora, no? Mi sembra che questo 38%, di cui il 18% è Milano, per esempio, quel 38% qui non includa l'inflazione, no? Non include il perdita del potere d'acquisto, cioè l'inflazione. Sì. Se ci mettiamo anche questo, siamo sotto praticamente oltre ampia. 50, penso. Questo vuol dire che se le borse crescessero del 100%, no? Perché quando va giù da 50 deve salire del 100, sarebbero pari a quello che erano 10 anni fa, cioè le 50 società più grandi in Europa. Io mi chiedo, ma... cos'è? Una inefficienza del mercato questa? Un errore che fanno? Oppure, non so, vorrei una riflessione. Dovremmo fare una trasmissione solo su questo. Stefano, la ringrazio. Salute. La ringrazio molto. Lionello, questa crisi ha cancellato sicuramente completamente il concetto del lungo periodo. Qua lo stiamo continuando a dire. Hai voglia a cercare di convincere gli investitori che puntando sul mercato azionario nel lungo periodo si vince sempre. Sì, qua bisogna abbiamo sempre vedere come lo si misura a lungo periodo. Come lo si misura, quanto è lungo. Sì. Faccio per esempio un'obiezione al nostro ascoltatore dello stesso tipo. Tipo di quella che ha fatto lui, diciamo, nel valutare l'aumento che hanno avuto le borse negli ultimi mesi. 10 anni fa le borse erano veramente in alto, erano veramente i massimi. A cavallo tra il 1999 e l'inizio del 2000 si sono raggiunti i massimi storici di tutte le borse del mondo. Per tutta la spinta che quindi dava. Quindi non è poi così, tech, così diciamo strano, nemmeno così drammatico che 10 anni dopo siamo sotto quello che è stato un massimo storico. In realtà, come dicevo prima, se lei misurasse 10 anni diversamente, cioè li misurasse, non so, dal 97, prima del boom del 98-2000, fino al 2007, probabilmente adesso saremmo qui a fare un altro tipo di valutazioni. Sul fatto che la borsa nel lungo periodo comunque cresca sempre si può ancora credere, anche se non è detto che quelle che sono state statistiche passate alla crisi del 29 in poi valgano ancora. Io comunque continuo a credere che soprattutto, non tanto per le borse in quanto listino complessivo, ma singole società ben gestite, di valore, eccetera, il discorso che nel lungo periodo l'investimento paga è ancora valido. È ancora valido, secondo me. C'è poi il tema dell'inflazione, che però io adesso a questo punto affronto nella seconda parte di Salvadanaio dopo la pausa, facendo però fare anche la domanda a Domenico da Roma, perché questo è un tema che ci eravamo preparati anche con Maurizio Tortorella, il tema anche dell'arrivo il prossimo anno sul mercato di una marea di titoli governativi, di obbligazioni governative, proprio per cominciare a pensare a questa exit strategy. Domenico, benvenuto, la sua domanda e poi le rispondiamo subito dopo la nostra pausa. Buongiorno, io volevo chiedere, diciamo semplicemente, quando gli esperti pensano che si possa tornare sul mercato obbligazionario e quando vedono questo ritorno, visto che sono sempre stato un obbligazionista puro? Sì, così in termini generali, obbligazionista puro cosa vuol dire? Obbligazioni societarie, titoli di Stato, mix portafoglio molto ben diversificato, quindi solo obbligazioni di qualsiasi natura ma niente azioni nel suo portafoglio? Sì, di qualsiasi natura, anche diciamo relativamente rischiose in quanto valuta, eccetera. Insomma, comunque, visto che hanno raggiunto comunque dei buoni livelli, adesso vedevo che sono in discesa, con il rientro degli stati volevo sapere guarda Domenico, certo, no, io le volevo dire che ovviamente io ho due colleghi giornalisti che sono due osservatori come me di quello che accade, quindi non possiamo dare suggerimenti di investimento. Se lei vuole, domani proporrò la sua domanda a due direttori investimenti, appunto, che avrò qui proprio per fare il punto di mercato di fine anno complessivo, però sentirò anche Lionello Cadorin e Maurizio Tortorella su questo, se avranno piacere di rispondere. Ci dobbiamo fermare pochissimi istanti, il meteo, un pochino di pubblicità e torniamo subito dopo. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Allora, questa mattina facciamo un originale punto del 2009 insieme a me, a Lionello Cadorin, direttore di Investire, Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, un punto sui fatti finanziari dell'anno che ci hanno particolarmente colpito, anche se poi vedo che molti ascoltatori che ho così cercato di invogliare ad intervenire su questo tema, continuano a guardare avanti giustamente, quindi a cercare di individuare quelle che potrebbero essere le prospettive di investimento del 2010. Vogliono sentire anche le considerazioni dei responsabili appunto delle riviste specializzate su questi argomenti, anche se io volevo ricordare appunto che poi di temi specifici di mercato ci occuperemo anche domani e il 4 gennaio. Allora, Maurizio Tortorella, abbiamo sentito un ascoltatore affezionatissimo investitore nel settore obbligazionario, sia di tipo governativo, quindi titoli di Stato, che di tipo societario. Il 2009 è stato l'anno di, come dire, grande ricorso al mercato da parte delle società, sì, perché alternative non ce n'erano, no? Le imprese non riuscivano ad ottenere credito dalle banche. Fiat, erano emissioni, se non ricordo male, riservate agli investitori istituzionali, però erano tassi molto elevati. Enel ha fatto altrettanto, se non ricordo male, altrettanto ancora. Sono state sicuramente delle ottime e interessantissime emissioni. L'anno prossimo credo che scoppierà sicuramente una concorrenza indiavolata nel settore invece dei titoli di Stato. E bisognerà vedere appunto che rendimenti potranno offrire, ma ovviamente per richiamare l'attenzione degli investitori credo che i rendimenti saranno anche piuttosto appetitosi, quelli che saranno in qualche maniera costretti a riconoscere agli investitori. Questo dovrà generarci qualche, come dire, attenzione in più rispetto a questo investimento, Maurizio, come la vedi? È possibile, però contemporaneamente non è improbabile che proprio per contenere l'inflazione, che inevitabilmente l'emissione di tanto denaro pubblico nei sistemi ha generato e causerà, è possibile che i tassi di interesse aumentino, quindi da questo punto di vista l'attrazione di questo tipo di investimenti sarà inevitabilmente penalizzata. E certo. Ci sono chiaroscuri abbastanza evidenti nel settore, credo, almeno per quello che mi permettono le mie competenze. Certo, no, ma figurati. La consulenza sarà cruciale l'anno prossimo, Lionello, se vuoi dirla tua anche sul tema dell'investimento nel settore obbligazionario, tra tassi di interesse che probabilmente riprenderanno a crescere, ma molto modestamente, perché l'inflazione forse crescerà nel futuro, ma forse l'anno prossimo sarà sotto controllo. Insomma, come vedi anche questo indicatore fondamentale per la scelta dell'investimento nel settore obbligazionario? Beh, io non credo che sarà un grande anno il prossimo per investire in obbligazioni. Sicuramente non sarà un grande anno per investire in titoli governativi, a meno che uno, come molti italiani fanno, cerchi in quello. Come piccoli investitori, sarà ancora un settore che rimarrà l'appannaggio dei grandi investitori, quindi. Sì, e poi in ogni caso, diciamo, investire in obbligazioni bene per guadagnare non è così semplice. Uno è un cassettista, nel senso che compra dei titoli sapendo già che li terrà fino a scadenza, incassa le cedole, al limite soffrirà un po' se vedrà emettere altri titoli che avranno un rendimento più alto, ma comunque sarà tranquillo solo il suo capitale. Per chi invece compra e vende titoli, soprattutto in un anno in cui i tassi di interesse potrebbero muoversi, va ricordato che si può anche perdere con il reddito fisso. Faccio un esempio: se uno compra un titolo obbligazionario a lunga scadenza che dà un certo rendimento e ha un certo prezzo, nel senso che in qualunque momento lo può rivendere a un certo prezzo, se i tassi di interesse salgono, quel titolo a tasso fisso che lui possedeva perde di valore. E tanto per dare un'idea che faccia capire la gente, diciamo un BTP a lungo termine, BTP decennale o più, che sono quelli che in questo momento rendono di più, se i tassi di interesse si spostano di un punto verso l'alto, il prezzo del titolo perde 10 punti, quindi c'è una compensazione, come no, dire, esatto, non è esatto, no? I movimenti dei tassi fanno cambiare i prezzi dei titoli, per cui uno deve ragionare se terrà i titoli anche di Stato fino a scadenza o li vuole vendere prima della scadenza, oppure può avere necessità di venderli prima. In quel caso deve stare molto attenti e precedere i movimenti dei tassi da singolo risparmiatore. Esatto, quindi difficile. Ritorno sul tema della consulenza: se andiamo dal consulente, esatto, diciamo anche, molto anche bene quello a cui ci serve anche l'investimento che stiamo facendo, se lo dobbiamo disinvestire nel giro di 2 anni perché dobbiamo comprare casa, allora magari quello non è lo strumento giusto, perché i tassi di interesse incideranno. Hai detto la cosa, tra le cose fondamentali dell'investire hai detto la prima, e cioè sapere esattamente quali sono i propri obiettivi e in funzione di quello cominciare a ragionare, poi a scegliere. Ci ritorniamo, però c'è un altro tema molto bello, perché siccome prima ho invitato gli ascoltatori a dirci e a raccontarci quali fossero stati i casi dell'anno finanziari, economici, che hanno dato più fastidio, hanno turbato di più, c'è un ascoltatore che dice: a me della crisi ha dato fastidio che alla fine ci rimette in proporzione sempre il più debole, i manager, i bonus dorati li prendono sempre, dice Fabio. Allora, Maurizio Tortorella, mi lego ad un altro tema che volevo affrontare con te, che so che ti tra virgolette, appassiona. Queste banche, che hanno in qualche maniera anche provocato e amplificato la crisi finanziaria partita dal crollo del mercato immobiliare statunitense, abbiamo scoperto che avevano in pancia tanti prodotti sofisticati che si vendevano tra di loro, prodotti venduti a leva. Adesso non stiamo a rispiegare tutto questo meccanismo che ci ha anche fin troppo nauseato negli ultimi mesi, ma queste banche, questi prodotti sofisticati, hanno ricominciato a venderli senza paura? Direi che quasi non hanno mai smesso di farlo, perché questa è l'impressione che mi hanno dato, anche leggendo banalmente le cronache finanziarie di questi ultimi mesi, è una certezza granitica purtroppo. L'impressione è proprio quella che i famosi derivati, gli strutturati, i prodotti complicati e illeggibili che adesso si fa fatica addirittura a ricostruire correndo all'indietro per vedere che cosa hanno effettivamente al loro interno, continuino a ingombrare e in qualche maniera ad avvelenare, si è parlato di titoli tossici, no? Ad avvelenare proprio la pancia di queste banche. L'impressione che appunto turba un pochino è che in tutto questo tempo, malgrado appunto questi imponenti investimenti pubblici lanciati anche alla ricerca di interventi e di politiche bancarie che avrebbero dovuto un po' purgare il sistema da questa massa infinita di titoli tossici, ben poco sia stato fatto, e anche questa, e lo dice comunque un ottimista, continua a ripeterlo, è un'altra ombra sul futuro. Sicuramente grandi fallimenti di banche, a parte Lehman Brothers e poche altre, non si dovrebbero vedere. In Italia, per esempio, continuiamo a dircelo e credo che sia la verità, a fallimenti non assisteremo mai, mi auguro, però è indubbio che una grande massa dei bilanci delle banche sia in qualche maniera offuscata da questo tipo di massa di titoli poco controllabili. E questo è un bel problema. È un bel problema, infatti, sul quale tra l'altro richiamano l'attenzione anche ancora gli organismi internazionali in maniera un po' frequente rispetto al passato, però ogni tanto qualcuno torna a lanciare l'allarme. Bisogna capire se l'operazione pulizia dei bilanci, Leonello, sia stata fatta e soprattutto poi se sarà fatta, che cosa ci sarà ancora dentro a questi bilanci. Credo che il governatore Draghi, per esempio, sia uno dei più tosti, insomma, sul richiamare le banche a fare il loro dovere, a pulire i bilanci, ma tutto sommato poi anche il grande tema delle regole non è che sia stato poi molto affrontato in maniera rigida come si auspicava. Sì, anche se poi le regole non sono tutto, cioè, diciamo che le regole sono importanti, ma se non c'è la base, c'è una base dei comportamenti che abbiano, diciamo, un certo contenuto di etica, di rispetto del mercato e delle regole stesse, è difficile con le regole disciplinare tutto, evitare tutto, come abbiamo visto anche negli Stati Uniti, dove si pensava che ci fossero e regole e soprattutto moralità, e poi abbiamo scoperto che insomma anche lì la puritanissima comunque, America per certi punti. Negli armadi e nei cassetti delle banche un po' di porcheria ci sarà sicuramente ancora. Io non è ritornato, come diceva il collega Tottorella, questo, diciamo, business della finanza. Io non penso sia fatto più su titoli tossici come prima, però è vero che le banche, anche le nostre, che pure sono meno, diciamo, siccome non riescono a fare, non sono capaci di fare abbastanza denaro prendendolo a prestito e prestandolo ad altri, fanno i soldi con la finanza, si indebitano dove i tassi di interesse sono più bassi, invece sono più alti, e quindi fanno i bilanci con la finanza e non facendo il loro lavoro fiorenti, di banca. Molto fiorenti proprio per le attività di trading. Allora, 800 24 00 24, io non vi ho più ricordato il numero verde, ma lo conoscete benissimo, infatti sono pronti ad intervenire Luca da Milano e Francesco da Piacenza. Sentirei Luca per primo, che aspetta da un po'. Benvenuto. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, il mio intervento è stato un po' bruciato dall'ascoltatore di prima, che volevo parlare anch'io del fatto che si continua a dire si sta guadagnando lì di Dio rispetto ai minimi e mai quanto si sta perdendo rispetto ai massimi. Sì. Vabbè, comunque lì. E allora vorrei fare una controosservazione al vostro ospite, che ha fatto un'osservazione all'ascoltatore prima, dicendo che l'ascoltatore prima guardava a 10 anni fa. Mm-hmm. Allora, 2 anni fa un titolo a caso, Unicredit valeva 7 euro. Sì. Adesso ne vale 2, eppure Unicredit ha guadagnato. È arrivata a 88 centesimi, 84. Quanto sta guadagnando? Cioè, io se l'avessi a 7, sentire dire sta guadagnando il 300% dei minimi, mi sentirei un po' preso in giro, no? Perché, cioè, voglio dire, basterebbe dire quanto si perde dai massimi anziché dire si sta guadagnando il 70%. È chiaro che se c'è un minimo si può solo salire, se c'è stato un minimo, se si guarda il minimo si sta solo guadagnando. Insomma, il tema è essere un po' più attenti al gergo che si utilizza, Luca. Colpa nostra, ancora una volta. No, basta. perché sembra che tutti, certo, chi ha comprato, che ne so, se il terapeutica 0,05 l'ha venduta 1 euro, certo avrà guadagnato il 20.000%. No, ma infatti però, sì, Luca, guardi, Leonello Cadorin le vuole controreplicare alla sua controosservazione. No, più che controreplicare, no, è vero, perché poi in realtà diciamo, i valori non sono assoluti, poi per ciascun investitore i prezzi sono quello che uno compra e quello che uno, a cui uno rivende. E purtroppo in borsa, come in altri mercati regolati la domanda e l'offerta, che si sia in presenza di un massimo non lo si sa in quel momento, lo si sa dopo, mm-hmm, quando si guarda cosa ha fatto il titolo, stesso quando si è in presenza di un minimo. Bisognerebbe cercare di capire abbastanza, non dico per comprare i minimi e rivendere i massimi, che è impossibile, non ce la fanno anche i professionisti. Esattamente. Però perlomeno non caricarsi di azioni in momenti di borsa molto alta e non andarle a rivendere in momenti di borsa molto bassa. Allora, prima dei suggerimenti per chi è in viaggio, c'è una bella provocazione di Francesco da Piacenza, e dopodiché utilizzeremo proprio i minuti dedicati a sentire cosa succede sulle strade italiane per lasciar riflettere Maurizio Tortorella e Leonello Cadorin su questa proposta che Francesco vuole fare ai nostri due colleghi, ai miei due colleghi. Francesco? Sono in linea? Sì, è in linea, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io sono estremamente affascinato dalla conduzione sia sua che anche di Barrisoni, però avevo una proposta. Sì. Ah. Quella di dire ai vostri consulenti, se se la sentono, di mettere all'inizio di tutti gli anni 100.000 euro da gestire secondo quelle che sono le loro, e di dichiarare i risultati alla fine dell'anno o trimestre. Vabbè, allora Francesco, noi qui abbiamo due giornalisti questa mattina, non ho consulenti, ho dei colleghi, no, lo ribadisco. Anche, come testate, le loro testate, mettono lì 100.000 euro della testata e alla fine dell'anno o trimestre per trimestre dichiarano. Vabbè, che adesso le performance sulla base delle loro, io la farei diciamo, a chi fa il gestore di professione più che altro, a chi dà suggerimenti di investimento, diciamo, a chi ha patrimoni, così in generale, no? Così in generale, per fare una potremmo sperimentazione, potremmo anche accettare. Ma io sarei contentissimo. E un'altra cosa, sì, sarebbe così anche per trasparenza, ma giusto per curiosità, sia lei che Sebastiano Barrisoni, ma pure ancora, avete investito i soldi? Non mi interessa quanto, ma come? Perché? Perché, guardi, io sono una canita appassionata della casa, del mattone, glielo dico, e soprattutto noi per professione, comunque siccome dovremmo avere con grande chiarezza un rapporto talmente onesto con la società con la quale lavoriamo, che dovremmo essere molto chiari anche nelle politiche di investimento che seguiamo, per cui non mi pare il caso, non credo che interessi a tutto il mondo sapere quello che facciamo noi. Siamo delle persone che vivono del proprio stipendio, che vivono a Milano, una città complicata, per cui Francesco, adesso rivolgo la domanda a Sebastiano quando arriva nel pomeriggio, poi vediamo se ha voglia di cimentarsi anche in questo, però insomma mi sembra un esercizio sterile, Leonello, adesso senza mancare di rispetto alla considerazione di Francesco, ma non è che poi i giornalisti siano tutti Enrico Mentana, gente che campa con centinaia di milioni di euro all'anno? Sgombriamo il campo anche da questo equivoco, aiutami in questo, Leonello. No, infatti io pensavo che, cioè, per il fatto che, visto che parlate di investimenti, poi in realtà chi fa questo mestiere occupandosi di deve stare di mercato finanziario a quello che fa, perché c'è l'aggiotaggio, deve stare molto attento a quello che fa, perché anche se è in buona fede, l'occuparsi o lo scrivere per esempio, esatto, sui giornali di una società, noi dobbiamo maneggiare cui la si è comprato cura, venduta, se anche uno è in buona fede e onesto darebbe comunque adito, e quindi è bene che i giornalisti finanziari non lo facciano. Infatti Maurizio, volevi supportarmi in questo? Le pene per i giornalisti sono aumentate, esatto, sì, quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. No, infatti, ti ringrazio che l'hai detto, perché poi si fa fatica a raccontarlo all'esterno, ma a me capita molto spesso che la gente mi chieda, allora tu sai tutto, perché siccome la racconto durante tutta la giornata, sai tutto quello che accade in borsa, io racconto quello che si è già saputo minimo due giorni prima da parte degli operatori, da chi gestisce patrimoni molto più importanti, per cui Leonello, noi alla fine arriviamo sempre anche tardi sulle cose. Sì, sì, questo soprattutto per chi come te o lavora nelle radio, nelle agenzie di stampa, nei quotidiani che sono sul mercato tutti i giorni. Diverso discorso per un periodico che può fare solo ragionamenti a lungo termine, non è legato all'attualità del mercato. Perché... Che sudata che mi ha fatto fare Francesco, allora mi prendo un attimo di pausa, tra poco. Salva Danaio. Allora, stavo leggendo qualche messaggio da parte degli ascoltatori, messaggi che arrivano, e noto la stessa cosa che era successa quando, con Sebastiano Barrisoni, visto che stamattina è stato più volte citato ed evocato in questa sede, abbiamo organizzato questa puntata di Salvadanaio ad ottobre in occasione dei 10 anni di Radio 24, e anche lì, invitando un po' a raccontarci agli ascoltatori quali fossero i fatti economici che nel decennio avessero colpito di più, sono usciti fuori 1000 volte gli scandali finanziari, quindi ancora Argentina, Parmalat, Cirio e ci sono diversi ascoltatori che ancora stanno scrivendo, evocando quei fatti. Lo scandalo finanziario dell'anno, scrive Nicola, e il fatto che Tanzi non abbia fatto la fine di Madoff, soprattutto dopo la vicenda dei quadri nascosti, quindi questo patrimonio nascosto, anche se sta pagando la figlia che è stata arrestata in questi giorni, se non sbaglio. Lionello, chiedo a te, è vero, questa crisi, per quanto devastante e preoccupante sia, lascia a casa tanti milioni di lavoratori, purtroppo, sperando che possano riprendere il posto di lavoro nei prossimi mesi, ma quanto ha suscitato scandalo, lo scandalo finanziario, probabilmente anche quest'anno non c'è stato nessun fatto simile. No. E questo è davvero originale, mi aveva colpito molto anche l'altra volta. Anche se vorrei far notare una cosa, anche a proposito dei discorsi che facevamo prima sull'investimento obbligazionario. Fateci caso, tutti questi scandali sono prevalentemente obbligazionari. Mm. Obbligazioni argentine, obbligazioni Parmalat. Sì, sì, si cerca la protezione. La stessa crisi dei mutui, che da qui un'altra crisi finanziaria, è una crisi legata al mercato del reddito fisso obbligazioni. Quindi questo è... Mm-hmm. Sì, no, sì, non viene ricordato spesso, lì, ma esatto, perché è un tutti i grandi scandali che ci ricordiamo, le rischi, grandi perdite per masse di risparmiatori rispetto agli scandali che ricordiamo sono tutte per investimenti obbligazionari. Sì. No, questa volta c'è stato lo scandalo generalizzato, nel senso una montagna di titoli, per esempio tantissimi avevano Lehman Brothers, però infatti, è una cosa diversa. Però no, è anche poi lì, forse diciamo Lehman Brothers che... è accomunabile come nome, l'unico accomunabile, ricordando che moltissimi anche avevano... titoli Lehman Brothers senza saperlo dentro fondi investimento, tanto è vero dentro che gestioni tutte separate le di polizze vita e così via. Hanno comunque praticato delle iniziative di risarcimento a vario titolo, chi invece se la passerà in maniera un po' più difficile, chi ha proprio delle obbligazioni dirette. E sono moltissimi, banca, molti esatto, di più di quelli che si... Maurizio, pensa. Volevo tornare a te perché a proposito di temi che fanno discutere, come dire, un po' anche imbufalire, non so adesso che termine utilizzare, infastidiscono, c'è stato il grande tema dello scudo fiscale quest'anno, no? Pare che siano almeno 95, secondo stime diffuse questa mattina, i miliardi rientrati con il rimpatrio da qualche mese a questa parte, ci sarà adesso la proroga e tutte le cose di cui avremo modo di parlare nei prossimi mesi. Dicevo con te ieri un po' così preparando questa trasmissione, un tema questo sì che infastidisce, perché le aliquote poi che si devono versare per il rimpatrio sono sicuramente minime rispetto a chi le paga nelle sedi opportune e normali durante l'anno, ma potrebbe essere un modo per ridare anche slancio all'industria immobiliare, questo. Esattamente, sì, e indubbiamente l'ennesimo condono, e questa non è una cosa positiva, col 5% di imposta uno se la cava dopo aver evaso il fisco, e quindi... questa è la parte negativa, però la parte positiva è che appunto questi 95 e poi probabilmente molto di più, si stimano già 110 miliardi di euro, in parte almeno torneranno fisicamente in Italia, perché alcune decine di questi miliardi sicuramente resteranno all'estero, saranno quindi soltanto regolarizzati, ma in gran parte i capitali torneranno ad affluire in Italia e dovranno trovare quindi una forma di investimento. Uno degli investimenti che si stima sarà privilegiato è quello nell'immobiliare, proprio perché l'immobiliare ha corsi in questo periodo abbastanza al ribasso, e questo sarà sicuramente un fattore positivo, perché riporterà in qualche misura a salire gli indici degli acquisti, che in questo momento sono piuttosto fermi. Mm-hmm. Leggevo che nel primo semestre l'Istat calcolava che le compravendite di immobili sono calate ancora del 16%, quindi è sicuramente un mercato che ha bisogno di un'iniezione di capitali, ed è probabile che gran parte di quei capitali vadano a finire lì. A proposito ancora di obbligazioni governative, leggo un ascoltatore che dice: ho trovato obbligazioni governative di paesi africani che rendono il 9%, hanno una tripla A, sono sicure, punto di domanda. Va a saperlo, anche le obbligazioni argentine davano il 9% qualche anno fa, sono finite come sono finite. La Grecia, voglio dire, è un paese che aveva delle obbligazioni ottime, almeno reputate come tali. Se non ricordo male, la regione Lombardia ha investito pesantemente in obbligazioni, in titoli di Stato greci, e adesso la Grecia mi sembra tutt'altro che un paese solido, purtroppo, anche per motivi politici oltre che finanziari. Bisogna stare molto attenti quando gli rendimenti sono alti, lo dice la storia, oltre che bravo Maurizio. Quando gli investimenti sono alti, evidentemente comportano un rischio. Più alto il rendimento, più alto è il rischio. E poi la tripla A, sappiamo, esatto, bisogna sempre tenere in considerazione. Sì, vorrei verificarla questa tripla A. Anche la tripla A, infatti, non è in ogni caso, ammettendo anche che fosse così, bisognerebbe appunto vedere quali paesi paesi, a quali paesi sta riferendo l'ascoltatore, non è più una pagella assolutamente certa, semmai lo fosse mai stata in passato. E poi comunque qualora fosse tutto vero quello che dice l'ascoltatore, anche se fosse l'investimento più appetitoso possibile, non investiamo tutto il nostro denaro lì, facciamo la diversificazione più ampia in modo tale che se anche questo paese africano andasse o magari, tracollasse, o magari se non siamo esperti usiamo un fondo obbligazionario che diciamo specializzato su quel tipo di mercati. E qua ci diranno che siamo anche degli sponsor dei fondi di investimento, figurati che sponsor con quello che è successo negli ultimi 3 anni. Allora sentiamo un po' ancora un paio di considerazioni conclusive. Volevo fare con te il tema della consulenza, chissà se ce la faccio, mi toccherà reinvitarti Lionello, guarda, va volentierissimo anche. Allora Bartolomeo da Genova, rapidissimo se ce la fa, grazie. Allora buongiorno, io sono un industriale e ascolto sempre molto volentieri questa trasmissione. Grazie. Assolutamente sempre, in generale la vostra radio. Un breve flash, io faccio prodotti di ferro, di alluminio, di acciaio, di plastica, e voglio dire un magazzino, il prodotto si vedono. Quando sento parlare di prodotti, che poi in effetti sono promesse o quant'altro, mi viene un po' freddo nella schiena. Vi lancio questa provocazione, chiamateli diversamente, quelli non sono prodotti, ovvero sono capace anche di inventarmi i prodotti, vado in tipografia e faccio questo bel prodotto. I signori che vendono i biglietti del lotto non parlano di prodotti, parlano di biglietti del lotto che danno emozioni. Quelli che vendono certi signori non sono prodotti. Lo so, noi cerchiamo di chiamare. Sì. Premetto, io frequento Foro Bonaparte, conosco i signori con le mani pulite, con le valigette, con le scarpe lucide. Frequento gli stabilimenti del Veneto, conosco i signori con le mani sporche, che rischiano e non dormono di notte. Frequento i locali che frequentano il signore di Milano, si divertono alle spalle di qualcun altro che conosco pure, per cui ho una chiara visione. Per mondi piacere. Separati, insomma, Bartolomeo, perché ognuno va chiamato con il suo nome. Uno sulla schiena dell'altro, quando sento parlare i signori con la cravattina lucida, li conosco perfettamente, li frequento, questi signori, come dire, fanno una cattiva, per carità di Dio, fanno il loro mestiere, vendono promesse, non diciamo che sono prodotti, trovategli un'altra parola. Sono strumenti finanziari che sono stati utilizzati per diversificare il rischio. Lionello Cadorino, ascoltatore, ha ragione. È che diciamo, la finanza è stata inventata anche per fare in modo che risorse finanziarie arrivassero agli imprenditori come il nostro ascoltatore per fare i prodotti. Poi la finanza se n'è andata per conto suo. Qualche imprenditore ha pagato anche duramente le conseguenze. A generare soldi con i soldi. E infatti, allora Bartolomeo, non che questo sia di per sé sbagliato, però l'eccesso l'abbiamo visto che è sbagliato. Lionello, il tema di riflessione degli ultimi tempi, la perdita della fiducia, l'hanno persa le banche tra di loro, un anno fa hanno fatto schizzare i tassi interbancari alle stelle, adesso tutto questo sembra rientrare, ma in termini di rapporto di fiducia fra noi e il nostro intermediario finanziario, qual è la lezione del 2009 e cosa ci dobbiamo aspettare per il 2010? Questa è la storia di copertina del tuo ultimo numero, però insomma un tema che dovremmo avere bene a mente tutto l'anno. Beh, diciamo che nel 2009 chi aveva già un rapporto fiduciario con un proprio consulente o intermediario corretto, basato sulla, diciamo, su quel ciclo virtuoso per cui dialogando in due tra un investitore e un consulente competente si ottiene un risultato migliore, sono stati sicuramente meglio di quelli che non hanno avuto consulenza o che semplicemente hanno diciamo, delegato tutto alle banche o a chi gli ha venduto prodotti di ogni tipo. Sono intervenute nel frattempo delle regole, ma anche qui le regole non bastano, però già qualcosa fanno. Probabilmente con queste regole, se gli investitori stessi non li considerano carte da firmare, ma diciamo se renderanno consapevoli, probabilmente essendo i clienti nel rapporto intermediario o con chi gli vende i finanziari più tutelato, probabilmente, come noi abbiamo scritto nell'ultima copertina, l'anno prossimo sarà più facile interloquire e più difficile vendere prodotti, diciamo, incomprensibili o che hanno... Lo speriamo, che hanno anche trabocchetto il conto corrente semplice, dentro, infatti. Maurizio Tortorella, volevo tornare anche a te, sempre per concludere, da Panorama Economy a Panorama, però insomma anche su Panorama le tematiche economiche non mancano mai. C'è qualche tema sul quale state lavorando in maniera particolarmente attenta per aprire anche il nuovo anno del settimanale? Insomma, su che cosa vorrai puntare particolarmente l'attenzione? Numero, da un'anteprima, a chi può essere interessato, una cosa che ha poco a che fare con la finanza, ma invece ha molto a che fare con quello che vediamo tutti i giorni. A Milano da tempo, a tutti gli incroci, vediamo storpi, veri e finti. E questa è un'inchiesta che pubblichiamo sul prossimo numero, molto interessante, che io consiglio non soltanto ai milanesi di leggere, perché obiettivamente è una storia inquietante a suo modo. Sono circa 300 gli storpi veri o finti che in questo momento vivono a Milano di accattonaggio. Questo è almeno il numero dei censiti dalla polizia locale. Loro incasso giornaliero è di 150 euro in media e quindi producono mediamente oltre 1 milione di euro al mese. questo milione va alle gang romene degli sfruttatori. Abbiamo raccolto delle storie strepitose, oltre che dei filmati interessanti che attraverso un nuovo sistema informatico sono visibili per chi si collega col cellulare a un dispositivo che compare sulle nostre pagine. E, francamente è una storia che io almeno reputo molto interessante e consiglio di leggere. Insomma, anche questo fa parte del nostro vivere quotidiano, oltre che i soldi di cui parliamo, che qualche volta ci hanno anche un po' stancato, c'è anche questo da osservare, insomma, quello che ci sta un po' intorno. Grazie Maurizio Tortorella. Maurizio, buon anno, a presto, non lo sentiamo più, ci ha chiuso il microfono il nostro Carmelo Lionello. Allora saluto te, buon anno, ci risentiamo presto nei prossimi mesi per tornare a parlare di consulenza. Io vi saluto, ci sentiamo domani. Da Deborah Rosciani, buona giornata.